Benvenuti. Allora, oggi esploriamo un aspetto, direi, affascinante dell'intelligenza artificiale. Vediamo come interpreta le informazioni. Beh, a seconda di come glielo chiediamo. Abbiamo qui davanti due analisi, generate dalla stessa AI, ok, e riguardano la stessa identica immagine. Si tratta del programma di un convegno, previsto per il 25 giugno 2025, su temi caldi. IA, informazione, RAI. Il titolo è Chi comanda nella società digitale? No, quasi, diametralmente opposti, dati alla stessa AI, eh? È un esperimento, diciamo, quasi perfetto per osservare come l'indicazione iniziale ne plasmi poi il risultato. Funziona un po' come uno specchio, no? Delle intenzioni o magari delle aspettative di chi fa la domanda. Ecco, cerchiamo di capire un po' le implicazioni di questa dinamica. Vediamo come l'obiettivo primario delle AI sia, alla fine, rispondere in modo coerente a quello che le viene chiesto. Bene, allora iniziamo subito dalla prima istruzione data alle AI. Il prompt era: analizza l'immagine e individua quali temi sono scontati e retorici. Un input, direi, chiaramente orientato alla critica. Cosa è venuto fuori? Beh, l'analisi prodotta è, come ci si poteva aspettare, decisamente critica. Molto. Sottolinea come i temi chiave del convegno, la governance dell'IA, con quella domanda un po' provocatoria, chi comanda? Poi il Media Freedom Act, il ruolo della RAI, la sua gestione. Ecco, come tutti questi temi siano presentati usando quelli che l'IA definisce schemi retorici consolidati e narrazioni scontate. Insomma, li legge come elementi tipici, forse un po' triti e ritriti, del nostro dibattito pubblico qui in Italia. Sì, capisco. E il testo generato dalla AI usa anche espressioni piuttosto forti, no? Tipo retorica populista già nel titolo. Parla di frame interpretativi ricorrenti. Cita anche il coinvolgimento di figure specifiche o partiti, come AVS, che magari sollevano spesso certi tipi di critiche. E nota questa tendenza a riproporre argomenti ciclici. Penso alla lottizzazione, no? Quella vecchia storia della spartizione politica in RAI. O l'allarme democratico. Ma, dice la AI, senza poi portare necessariamente a nuove prospettive, a nuove sintesi. Cita persino una tecnocritica generica. Proprio così. L'interpretazione che ne viene fuori è quella di un dibattito che rischia un po' di avvitarsi su se stesso, cioè focalizzato più su dinamiche di potere, su narrazioni già sentite, piuttosto che su un'analisi profonda dei problemi reali. Viene definita, in modo abbastanza netto, devo dire, una retorica senza lumi. Capisco. È un quadro molto, molto specifico. Ma adesso viene il bello. Passiamo al secondo prompt, che chiedeva praticamente l'opposto. Analizza l'immagine e sottolinea la pregnanza dei temi trattati e la significatività degli approcci. Quindi, che scenario ci dipinge la AI stavolta? Beh, qui, come era prevedibile, la musica cambia radicalmente. L'analisi generata stavolta adotta un tono quasi entusiasta, direi. Gli stessi identici temi del convegno IA, Media Freedom Act, RAI, vengono ora descritti come, senta un po', di grande impatto, estremamente rilevanti, addirittura cruciali. E l'approccio proposto dall'evento, quello che prima era, diciamo, implicitamente criticato, qui viene definito significativo. Significativo per la sua natura interdisciplinare, per l'attenzione al fattore partecipativo e per la sua prospettiva strategica. Interessante, davvero interessante questa trasformazione. Quindi, questa seconda analisi mette in luce l'importanza di discutere la governance RAI nel contesto del Media Freedom Act, la nuova normativa europea, giusto? Esatto. E sottolinea poi il ruolo cruciale dell'IA per il pluralismo informativo, ponendo quella domanda chiave: chi definisce l'algoritmo? E considera fondamentale affrontare quella che l'AI chiama la debolezza delle politiche industriali per Rai Way, la società delle infrastrutture RAI. L'intero evento è visto quasi come una proposta coraggiosa, che intreccia etica, politica, futuro della democrazia. Eh sì, il contrasto è netto, lampante. Stiamo parlando dello stesso identico programma di convegno, letto in due modi totalmente opposti. Prima quasi un esercizio di retorica un po' stanca, no? E poi invece un'iniziativa fondamentale, visionaria, Questo, secondo me, dimostra in modo molto potente una cosa fondamentale sulle AI. L'assistente artificiale non sta esprimendo un giudizio oggettivo sulla fonte, sul programma in sé. Sta piuttosto costruendo una narrazione che soddisfa la richiesta specifica del prompt. Il suo obiettivo primario è proprio quello, ottimizzare la risposta per renderla coerente con l'input ricevuto dall'utente. Quindi non è tanto una questione di verità oggettiva, quanto di aderenza alla richiesta. L'AI fa quello che le chiediamo, insomma, amplifica la prospettiva che le suggeriamo. Esattamente. L'elemento chiave che emerge è proprio questa incredibile malleabilità dell'analisi AI. La sua dipendenza, direi, critica dalle istruzioni, funziona come uno strumento potente, non c'è dubbio, ma uno strumento che per sua natura tende a riflettere, ad amplificare, a strutturare il punto di vista che è implicito o esplicito nella domanda. La sua finalità non è scoprire la verità, ma fornire una risposta che chi ha chiesto considererà valida, pertinente, pertinente alla sua domanda. E questo, questo ci porta dritti a una riflessione importante. Per chiunque usi questi strumenti, no? Per informarsi, per lavoro, ma anche solo per curiosità. Se l'AI è così brava ad adattarsi, a confermare in un certo senso quello che le suggeriamo, come possiamo noi formulare le domande per ottenere una comprensione che sia davvero più profonda, più sfaccettata dei problemi complessi? Come evitiamo di usarla magari inconsciamente solo per rafforzare le nostre convinzioni o per ascoltare le storie che ci fanno più comodo? Ecco, questo è un punto su cui credo valga decisamente la pena ragionare un po'.